Appendice pastorale messa nel libro di Walter. Prefazione. Queste riflessioni pastorali faciliteranno la lettura pastorale e sono contenute in La presenza di Cristo nella Torah. Poiché il libro è stato scritto per gli addetti ai lavori, abbiamo pensato di esporre in modo semplice, lineare e progressivo le tesi più evidenti esposte nel libro. Il dato centrale della ricerca verte sulla specificità e sulla teologia del nome di Dio. Mediante esso possiamo avere l'accesso alla comprensione della parola di Dio, senza di esso ci è preclusa la possibilità di comprendere a fondo la scrittura e la fede cristiana. Queste sono dunque riflessioni che ogni persona che diventa figlio di Dio per la fede in Gesù deve conoscere. Esse costituiscono la base della fede cristiana. Senza questa base, nessuno può definirsi cristiano. Chi non ha conosciuto e compreso chi è Gesù, è destinato prima o poi a lasciarsi sedurre da ogni vento di dottrina. Purtroppo i cristiani nel corso dei secoli si sono persi in grandi e sterili discussioni teologiche, perdendo il loro vero obiettivo: spiegare al mondo e ai credenti chi è Gesù Cristo. La persona divina di Gesù rimane ancora troppo oscura o, peggio, banalizzata e relativizzata. E così è urgente. Quindi recuperare e riaffermare il patrimonio comune e la comune identità cristiana che ha come perno la persona del Salvatore. Spesso il cristiano nel testimoniare della sua fede parte da certi presupposti che impediscono all'ascoltatore di comprendere pienamente il messaggio che egli vuole trasmettere. Perciò affinché la persona di Gesù possa essere compresa pienamente, saremo costretti a percorrere un percorso lungo ma inevitabile. In questa ricerca per conoscere il Signore Gesù Cristo non daremo nulla di scontato se non quello che la Bibbia è la parola di Dio divinamente ispirata nei suoi testi originali. Questi dovranno parlare al cuore e alla mente dell'uomo del terzo millennio. Dal momento che la fede cristiana ha le sue radici in un'altra, cioè quella ebraica, dobbiamo. Fede ebraica? Veterotestamentaria potrebbe per qualcuno essere soltanto un artificio, ma dal punto di vista ermeneutico e storico diventa ineluttabile. Fede ebraica. Esaminare l'indagine dalla. Iniziare. Ogni cosa sia visibile, sia invisibile, ha un nome, animale, pianta, oggetto, angelo, sentimento, eccetera. Il nome serve per identificare una cosa o un oggetto da un altro. Anche l'essere supremo, al quale si riferiscono tutte le religioni, ha un nome. Questo nome varia da religione a religione, ma non vi è dubbio che gli uomini gli abbiano attribuito un nome per attribuirgli un'identità. I nomi più comuni nella Bibbia ebraica per definire il Creatore, colui che si è rivelato a Mosè e ai profeti, sono Adonai, che ricorre circa 600 volte, Elohim, che ricorre circa 2000 volte, Yahweh, che ricorre più di 6000 volte. Gli altri appellativi, come il Shaddai, il Roi, eccetera, sono nomi composti. Questi 8000 nomi del Creatore non possono essere trascurati. Se un nome serve per distinguere una cosa da un'altra, è evidente che i nomi di Dio mettono in evidenza una diversità all'interno della divinità. Chi non conosce l'ebraico considera tali nomi dei sinonimi, ma questo è un errore che impedisce di comprendere correttamente la parola di Dio. In effetti, questi nomi hanno del peculiare. 1. Il nome comune è Adonai. Il suo significato è Signore, nel senso di padrone. Adonai è nome comune, cioè della stessa forma che possiamo attribuire anche ad un uomo, e non soltanto a Dio. In ebraico antico, Adonai è plurale, signori. 2. Il nome generico Elohim. Elohim è un nome generico. In ebraico, la forma del nome Elohim è al plurale. E si dovrebbe tradurre Dian, un plurale generico. Il nome al plurale rende l'idea di una pluralità in seno alla divinità. 3. Il nome proprio Yahweh. Queste quattro consonanti diventano l'unico vero e proprio nome del Dio di Israele. Le quattro consonanti rimangono e rimarranno certamente la scritta più enigmatica nell'ambito delle religioni. Ad esse venne dato il nome di tetragramma, parola coniata per la prima volta dal filosofo Filone di Alessandria. La parola tetragramma deriva dal greco, composta da tetra, quattro, e gramma, lettera. La vera pronuncia di questo nome è andata perduta perché Yahweh era considerato un nome troppo sacro per essere pronunciato e anche perché nell'originale ebraico mancavano le vocali che furono aggiunte nei testi biblici dai Masoreti solo nel secolo VI d.C., quando nel testo sacro gli ebrei incontravano Yahweh di solito leggevano Adonah Jay. Così finirono per aggiungere al tetragramma le vocali di Adonah J-D-E-O-A e ne risultò Geova. Il nome corretto, normalmente considerato quello autentico dagli specialisti, è Yahweh. I traduttori della Bibbia traducono questi nomi di Dio in vari modi. Per queste considerazioni useremo la versione della Nuova Diodati, revisione 1991, perché distingue i tre nomi. In effetti ha reso Adonai, con Signore Elohim, con Dio, Yahweh, il tetragramma, con Eterno. Chi ha preso l'iniziativa di attribuire il nome Yahweh al Creatore? È stata una decisione degli scrittori sacri? No, Yahweh è il nome che il Creatore stesso si è dato. Dio si è rivelato così. Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, l'Eterno, Yahweh, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo. Questo sarà sempre il mio nome col quale sarò ricordato per tutte le generazioni. Esodo 3, 15. Nessuno fino a quel momento aveva conosciuto il Creatore con il nome di Yahweh. Lui stesso lo disse. Sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, come Dio onnipotente. Ma non mi ero mai fatto conoscere da loro con il mio nome di Eterno, Yahweh, Esodo 6:3. La divinità non conoscibile negli aspetti peculiari della pluripersonalità dalla mente umana si è rivelata dunque col nome di Yahweh per la prima volta a Mosè. Yahweh doveva dunque essere la divinità per il pio israelita. Ancora oggi il popolo di Israele recita ogni giorno. Ascolta Israele, l'Eterno Yahweh, il nostro Dio, è l'unico Eterno Yahweh. Deuteronomio 6:4. La fede dei santi dell'Antico Testamento non era dunque in un Dio, in un Elohim vago, ma era nel tetragramma. Yahweh è il Dio degli ebrei, anche se non era l'unica e sola divinità. Lo testimonia il Salmo 136. Uno celebrate l'Eterno perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Due celebrate il Dio degli dei perché la sua benignità dura in eterno. Tre celebrate il Signore dei Signori perché la sua benignità dura in eterno. Quattro colui che solo fa grandi meraviglie perché la sua benignità dura in eterno. Il salmista invita a celebrare colui che solo fa meraviglie dopo aver nominato l'Eterno. Yahweh, il Dio degli dei è Elohim e il Signore ad per il credente israelita, l'Eterno, il Dio degli dei e il Signore, erano una sola persona. Egli usa una pluralità di termini per indicare lo stesso ed unico Dio, eppure non sono una sola persona. Ma questo fa parte della nostra ricerca. La pluralità in Dio. Uno dei due nomi di Dio, Elohim, che si trova più di 2000 volte, è al plurale. Grammaticalmente, Elohim è plurale in ebraico e si dovrebbe tradurre letteralmente iddii. Esso lo troviamo nel primo versetto della Bibbia, dove un soggetto plurale è coniugato con un verbo al singolare. Nel principio Dio, iddii, creò i cieli e la terra. La singolarità della pluralità di Dio la troviamo più volte nella scrittura, mettendo in tal modo in evidenza la pluripersonalità nell'unico Dio di Israele. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, Genesi 1, 26. E l'Eterno Dio disse, ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Troviamo le stesse espressioni al plurale anche nell'episodio della Torre di Babele, Genesi 11, 5 a 7, e nella vocazione di Isaia, Isaia 6, 8. L'Elohim non è solo un nome al plurale, ma esso esprime realmente una molteplicità numerica all'interno della divinità rivelata al popolo dell'Eterno. La pluripersonalità dell'Elohim non è solo evidente nelle sue affermazioni, ma anche nei primi cinque libri della legge, la Torah. Dal capitolo 20 dell'Esodo, in poi, è Yahweh che parla a Mosè. In questo discorso quasi mai interrotto, Yahweh parla di una terza persona di Dio. Virgolette. Allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo, ed egli lo servirà per sempre. Esodo 21. 6. Se però non gli ha teso alcun agguato, ma Dio glielo ha fatto cadere in mano, io ti assegnerò un luogo dove egli possa rifugiarsi. Esodo 21, 13. E è significativo anche il brano di Esodo 23, 14, 21. E è sempre Yahweh che parla. Tre volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa degli azimi. Per sette giorni mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quello tu uscisti dall'Egitto, e nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Osserverai anche la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che hai seminato nei campi, e la festa della raccolta. Alla fine dell'anno, quando raccoglierai dai campi i frutti del tuo lavoro. Tre volte all'anno, tutti i tuoi maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Non offrirai il sangue della mia vittima, col pane lievitato, e il grasso dei sacrifici della mia festa non rimarrà fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno, il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della terra. Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Ecco, io mando un angelo davanti a te, per vegliare su di te lungo la via, e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Stai attento davanti a lui, e ubbidisci alla sua voce, non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui. Nel libro del Levitico è costante la forma scritta dalla prima alla terza persona. Al capitolo 22 troviamo l'ordine di offrire all'Eterno per tre volte, Levitico 22:31-33. Per poi concludere così: osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. Io sono l'Eterno, non profanerete il mio santo nome, ma sarò santificato in mezzo ai figli di Israele. Io sono l'Eterno che vi santifico, che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono l'Eterno. Levitico 22:31-33. In questo libro abbiamo 310 citazioni del tetragramma e non è mai citato né Elohim né Adonai. Questa peculiarità potrà essere un ulteriore tema di studio. Yahweh parla in modo tale da rendere presente una realtà divina al pari di Dio, pur dichiarando che Dio è l'unico Signore. Chi legge è obbligato a considerare almeno due soggetti: Yahweh e Dio. L'alternanza dalla prima alla seconda persona non è casuale. Di fronte a questa struttura della Torah, non rimane che accettare una pluralità in seno alla divinità di Israele. L'antropomorfismo del tetragramma. L'antropomorfismo è attribuire alla divinità qualità umane, sia fisiche sia somatiche. Il nome vero e proprio del creatore è composto da quattro consonanti, Yahweh. La domanda che spontaneamente viene da porsi è: il tetragramma è una parola, un insieme di lettere o una persona? Risulta evidente anche da una lettura superficiale che l'Antico Testamento non si riferisce mai a Yahweh senza attribuirgli dei lineamenti umani. Nel racconto della creazione leggiamo che Yahweh crea i cieli e la terra, Genesi 2:4, forma l'uomo e gli soffia nelle narici un alito vitale, Genesi 2:7. Gli comanda di non mangiare del frutto proibito, forma la donna prendendo una delle costole di Adamo e mettendo della carne al suo posto, Genesi 2:18-19, passeggia nel giardino dell'Eden, Genesi 3:8, fa ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li veste, Genesi 3:21. Sempre, tutta, antropoformismo. Sottolinea questo dato teologico, c. Tradizione. Tutta questa serie di verbi, tipicamente d'origine antropomorfica, non si addicono ad un Dio vago, etereo, spirituale, e senza alcuna fisicità, la parola di Dio non presenta solo Yahve con caratteristiche antropomorfiche, ma anche quelli antropopatiche, attribuire alla divinità passioni umane, psichiche. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Genesi 6, 6. Addolorarsi e pentirsi sono verbi che si adattano alla persona umana più che a un Dio astratto. L'antropomorfismo di Yahweh è evidente anche nel racconto del diluvio quando chiude dentro all'arca Noè, Genesi 7, 15, 1, 6. Quando scende per confondere gli uomini che costruivano la torre di Babele, Genesi 11, 5 a 7. Quando si fa vedere ad Abramo e alla fine del colloquio sale in alto, Genesi 17, 1, 22. Quando afferma Mosè, il quale desiderava vedere la sua gloria, tu non puoi vedere la mia faccia. Ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle. Esodo 33, 8, 23. Se leggiamo attentamente i libri dell'Esodo, Levitico, Numeri, notiamo che Mosè parlava con il tetragramma non in senso figurato, ma concreto. Così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento. Esodo 33, 1. CFR. Deuteronomio 34, 10. Questo rapporto era talmente reale che Mosè chiede a Yahweh di andare con loro. Yahweh risponde, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. E, risaputo che l'Eterno è ovunque, Salmo 139, perciò in questo caso Mosè chiede a Yahweh di rendere presente la sua presenza concreta e fisica e che accompagni il suo popolo. Esodo 33, 15. Mosè verrà esaudito. Esodo 33, 17. Yahweh accompagnerà fisicamente Israele dall'uscita dell'Egitto fino alla terra promessa. Deuteronomio 31, 3, 6, 8. La presenza di Yahweh è realmente presente. È dunque possibile che la divinità abbia una fisicità che sottolinei non tanto un'antropomorfizzazione di Dio quanto una teomorfizzazione dell'uomo. Vi è qualche altra indicazione nella parola di Dio che ci dia da comprendere che Yahweh abbia non solo una fisicità percepibile come angelica o umana? La risposta affermativa la troviamo in una entità misteriosa, l'angelo dell'Eterno. L-A-N-G-E-L-O-D-E-L-L-E-T-E-R-N-O. Ogni persona mandata da Dio è, nello stretto termine, un angelo. Quando però l'Antico Testamento si riferisce all'angelo dell'Eterno, non si tratta di un semplice angelo mandato da Dio. L'angelo dell'Eterno, chiamato anche angelo di Dio, accompagna il popolo di Israele verso la terra promessa. Esodo 14, 19, 23, 20, 33, 2, Numeri 20, 16. Dal contesto risulta Yahweh. Quando Agar lo incontra presso una sorgente d'acqua, lo riconosce come Yahweh. Genesi 16, 7, 13. Quando Abramo, per ordine di Yahweh, sta per uccidere suo figlio, l'angelo dell'Eterno lo ferma dichiarandosi esplicitamente di essere Yahweh. Genesi 22, 10, 1, 8. Quando l'angelo dell'Eterno appare a Gedeone, era seduto sotto una quercia. Giudici 6, 11. Nell'episodio della nascita di Sansone, l'angelo dell'Eterno appare prima alla moglie di Manoa. Essa corse a dirlo a suo marito dicendo, «Un uomo di Dio è venuto da me, il suo aspetto era come l'aspetto dell'angelo di Dio, veramente spaventevole». Giudici 13, 6. La descrizione dell'angelo dell'Eterno che le fa la moglie mette in evidenza alcuni aspetti. Esso è un uomo ma diverso dagli altri, perché assomiglia all'angelo di Dio. Non era l'angelo dell'Eterno ad essere ritenuto un uomo, ma era l'uomo ad essere ritenuto l'angelo dell'Eterno. Alla fine dell'episodio i due sposi si resero conto di aver visto la divinità di Israele. Abbiamo visto Dio. Giudici capitolo 13. Infatti Manoa ha paura di morire. L'umanizzazione dell'angelo dell'Eterno è evidente nell'episodio della vita di Giacobbe, quando lotta con l'angelo. Questo angelo la scrittura lo definisce un uomo, E, nonostante questo, l'angelo uomo afferma che ha lottato con Dio. Genesi 32, 24, 30. Il profeta Osea commenterà questo episodio così. Nel grembo materno prese il fratello per il calcagno e nella sua forza lottò con Dio. Sì, lottò con l'angelo e vinse, pianse e lo supplicò. Lo trovò a Betel e là egli parlò con noi, cioè l'Eterno, il Dio degli eserciti, il cui nome è l'Eterno. Osea 12, 3 a 6. Anche Giosuè, prima della presa di Gerico, vede un uomo con la spada sguainata. Quest'uomo gli ordina di togliersi i calzari dai piedi perché il luogo era santo. Giosuè 5. 13-15. Il testo è un evidente di Esodo 3. Vi è una sola altra occasione nella quale l'angelo dell'Eterno ordina di togliersi i calzari, l'incontro con Mosè, Esodo capitolo 3. In quella occasione parlava l'angelo dell'Eterno, che, indiscutibilmente, è Yahweh. Mentre parlava, vedeva un uomo in una fiamma di fuoco. Anche le profezie riguardanti Yahweh presentano il suo aspetto umano. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Zaccaria 14, 3 a 4. Allora udii uno che mi parlava dal tempio, mentre un uomo stava in piedi accanto a me e mi disse: «Figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo delle piante dei miei piedi, dove abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre». Ezechiele 43, 6 a 7. «Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito». Zaccaria 12.10. L'Eterno profetizza la sua futura incarnazione, quella di avere un corpo. Un corpo talmente reale che tornerà, posando i piedi sul Monte degli Ulivi e verrà trafitto. Chi fermerà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi? Chi è quel figlio unico, il primogenito, che verrà trafitto? L'angelo dell'Eterno è dunque coglibile dai sensi dell'uomo. Egli è un uomo. Ma non solo un uomo. Gli uomini lo hanno chiamato Dio o Yahweh. Egli affermava di se stesso di essere la divinità di Israele, di essere Yahweh. L'Antico Testamento è dunque la prefania cristica. Il Nuovo Testamento. Lo studio dell'Antico Testamento ci ha dato l'opportunità di comprendere le seguenti verità. Yahweh è il nome che il Creatore si è dato. Yahweh è la divinità di Israele. Yahweh è una persona. Yahweh si è presentato vivente con una fisicità molto evidente. L'Antico Testamento è l'Evangelo di Yahweh. Dopo il profeta Malachia, Yahweh Dio tace per 400 anni. Ma ecco che leggiamo nell'Evangelo secondo Luca. Or, nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide, e Lisania tetrarca della Birene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Luca 3, 1 a 2. In un periodo ben preciso della storia, Giovanni il Battista riceve un mandato da Dio. A chi lo interrogava rispose: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me, che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Chi era dunque questa persona che veniva dopo di lui, ma che esisteva da sempre? Il giorno dopo Giovanni, indicando Gesù, disse: «Questi è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me». Giovanni 1, 19-30. Giovanni identificò in Gesù l'uomo che da sempre esisteva. Nel greco l'espressione è ancora più significativa: «In mezzo a voi è stato chi voi non conoscete». Giovanni 1, 26. Giovanni afferma che chi è presente era antecedente a loro. E Gesù cosa disse di se stesso? È vero che egli non ha mai negato la testimonianza di Giovanni, ma ha qualche volta espresso chiaramente di essere sempre esistito? Sì, anzi. Fin dall'inizio del suo ministero, Gesù si è identificato con la divinità di Israele. Con l'affermazione Io sono, Gesù si identificò con Yahweh. Giovanni 4, 26, 6, 20, 8, 24, 8, 28, 8, 58, 13, 19, 18, 5, 6, 8. Affermando Io sono, Gesù ha voluto asserire di essere lui colui che parlava nel pruno, di essere la divinità di Israele, di essere Yahweh, di essere l'incarnazione di Yahweh, di essere il corpo del Dio di Israele. Se non credete che Io sono, voi morirete nei vostri peccati. Giovanni 8, 28. Si potrebbe obiettare che tale espressione era normale al tempo di Gesù, e questa è una verità perché la usarono sia gli apostoli sia Giuda che il cieco nato. Matteo 26, 22, 25. Giovanni 9, 9. Non vi è dubbio però di un fatto. Dopo 2000 anni è possibile interpretare l'espressione di Gesù Io sono erroneamente, ma non è possibile dubitare che i contemporanei di Gesù l'avessero fraintesa. I suoi nemici e i giudei per questa espressione lo hanno crocifisso. Se i giudei hanno condannato Gesù a morte perché aveva detto Io sono, significa che sulla bocca di Gesù non era un'affermazione normale, ma avevano il significato che egli si identificava con Yahweh, affermava di essere il loro Dio. Di questo infatti è stato condannato. I giudei gli risposero dicendo: «Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio». Giovanni 10, 33. L'affermazione di Gesù non ha paragoni nella storia delle religioni. Egli non ha solo detto di essere Dio, ma ha sostenuto di essere la persona che era presente in tutto l'Antico Testamento. Più volte Gesù riprese i giudei perché non sapevano cogliere la sua presenza nell'Antico Testamento. «E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me». Giovanni 5, 37, 4, 0. «Infatti se voi credeste a Mosè, crederete anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?» Giovanni 5, 46. Con tali discorsi Gesù stava sostenendo che la Torah presenta in modo evidente la sua presenza. I profeti hanno testimoniato di lui. Chi dunque non crede a ciò che è scritto nella Torah non può credere a ciò che Gesù afferma, perché egli non fa altro che ripetere ciò che è testimoniato nelle scritture. In definitiva, Gesù stava asserendo che egli era nell'Antico Testamento il soggetto e l'oggetto della rivelazione, che l'Antico Testamento non era altro che una prefania cristina preparatoria alla sua incarnazione. Riferendosi ai profeti, Gesù sostiene di averli visti e parlato con loro. Giovanni 8, 58. L'Evangelista Giovanni conferma che Isaia ha visto il Cristo. Giovanni 12, 37, 4, 1. Proprio perché i giudei non credevano che le scritture testimoniassero del Cristo, essi furono severamente ammoniti. «Non pensate che io vi accusi presso il Padre, cic, è chi vi accusa Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?» Giovanni 5, 44, 4, 7. Chi non scorgeva nell'Antico Testamento la presenza di Cristo, come poteva credere in Lui? Gesù parlava di se stesso come il preannunciato dall'Antica Alleanza. Non solo. Quando Gesù raccontò l'episodio di Lazzaro e l'invocazione del ricco di mandare dai morti per testimoniare della perdizione eterna, Gesù rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, Non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Luca 16, 31. Ascoltare Mosè e i profeti significava credere a Yahweh. Chi non crede che Gesù Cristo sia l'incarnazione di Yahweh non ha altra possibilità di credere nella divinità di Israele. La presenza di Gesù nell'Antico Testamento. Alcuni credenti non leggono l'Antico Testamento perché lo ritengono difficile da capire e non cristiano. Eppure le affermazioni degli apostoli al riguardo sono ben precise. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per mezzo della fede che hai in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. 2 Timoteo 3, 14, 17. Le scritture alle quali si riferiva Paolo erano l'Antico Testamento. Per i primi cristiani, essi erano sufficienti per istruire tutti coloro che volevano fare la volontà di Dio. Anzi, essi dovevano essere letti perché erano una fonte preziosa di insegnamento. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dell'età. 1 Corinzi 10.11. Paolo stesso, nelle sue lettere, riporta alcuni episodi del popolo di Israele descritti nell'Antico Testamento. Leggiamo nella prima lettera dei Corinzi. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. 1 Corinzi 10.19. Per i primi cristiani, il popolo di Israele seguiva Cristo e, nel peccare, non peccava contro un Dio vago, ma contro Cristo. Questa coscienza che avevano i primi cristiani della presenza di Gesù nella Torah si nota ovunque. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ebrei 11, 24, 26. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo, che il Signore, Gesù, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non cedettero. Giuda 5. I testi più antichi del V e V secolo al posto di Signore avevano Gesù, Cristo, Dio. Cristo, Dio. Queste versioni mettono in evidenza che è stato Gesù Cristo a salvare il popolo dell'Eterno dall'Egitto e non tanto un vago Signore. Gesù è il Signore. Da quando i primi discepoli hanno creduto in Cristo sono passati 2000 anni. Nel corso dei secoli, i seguaci di Gesù si sono dati o gli hanno affibbiato vari nomi: cristiani, ortodossi, protestanti, cristiani evangelici, pentecostali, battisti, valdesi, eccetera. Ma come professavano i primi seguaci di Cristo la fede nel loro Salvatore? Cosa affermavano quando testimoniavano della loro fede in Gesù? La professione di fede dei primi cristiani era: Gesù Cristo è il Signore. Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2 e 11. Che cosa volevano intendere i primi cristiani quando attribuivano a Gesù il titolo di Signore? Era un semplice titolo di rispetto, un altro nome di Dio, o qualcosa di più profondo? Quando gli LXX hanno tradotto in greco i libri degli Ebrei, hanno tradotto il nome della divinità di Israele, Yahweh, con Kyrios, cioè Signore. L'altro nome Elohim lo hanno tradotto con Theos, cioè Dio. Quindi, quando nel Nuovo Testamento troviamo l'espressione Signore, essa è attribuita a Gesù Cristo. Quando incontriamo il termine Dio, esso è attribuito al Padre. E infatti, anche se vi sono i cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi Sin è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. 1 Corinzi 8, 5 a 6. Ovviamente non è detto che tutte le volte che troviamo la parola Dio, questo termine, si riferisca solo a Dio Padre. Essendo Gesù Cristo Dio della stessa sostanza del Padre, il termine Theos è attribuito anche alla persona di Gesù Cristo per affermare la sua divinità. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio, Theos, e la vita eterna. 1 Giovanni 5, 20. Questa affermazione sulla divinità di Gesù è inequivocabile. Si potrebbe dedurre che il vero Dio sia il Padre, ma Giovanni aveva premesso che la vita eterna è Gesù. 1 Giovanni 5, 11 conf. Giovanni 14, 6. Perciò l'affermazione di essere il vero Dio non può essere riferita che a Gesù Cristo. Se è vero che anche Gesù è dichiarato Dio, non troviamo nella Scrittura che il titolo di Signore sia attribuito anche al Padre. Designando col titolo Signore Gesù il figlio di Maria, i primi ebrei cristiani riconoscevano in lui Yahweh, quale unico e vero Dio dell'Antico Testamento, quale persona della pluralità di Dio. Per essi Yahweh era una prefania cristica, Gesù era l'incarnazione di Yahweh. E, in quest'ottica che deve essere letto il Nuovo Testamento, perché solo così possiamo comprendere le affermazioni degli Apostoli quando attribuiscono la creazione di ogni cosa a Gesù Cristo. 1 Cor 8, 5 a 6, Giovanni 1, 1 a 3. Per i cristiani, Gesù Cristo rimane l'unico Dio. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, Colossesi 2, 8, 9. Questa affermazione porta a concludere che Gesù è il corpo di Dio. Al riguardo, i testimoni della torre di guardia non si rendono conto del grave errore della loro fede. Essi affermano che vi è Geova, il Padre, e Gesù Cristo un Dio inferiore al Padre. Essi hanno questa fede perché partono dal presupposto che il Dio dell'Antico Testamento sia diverso dal Nuovo, cioè che il Dio dell'Antico Testamento è il Padre, e il Nuovo si riferisce a Gesù. L'errore è molto simile a quello degli ariani, macroscopico. Abbiamo compreso che Yahweh è Gesù Cristo, perciò quando essi testimoniano di Geova, essi non fanno altro che testimoniare di Gesù Cristo. È altrettanto strano però l'ostracismo di Israele all'idea che il Dio dei padri avesse una riscontrabilità fisica, visto che i testi del Tanakh ne parlano in modo quasi grossolano. E tutto ciò è detto con rispetto e amore per il popolo di Dio, ma non c'è, è tanto da interpretare, i testi sono troppo eloquenti. Quando Gesù si identificava con Yahweh pur creando scandalo, si rifaceva con chiarezza ad una realtà preconizzata. Egli non si attribuiva solo un titolo, ma un'identità viva ed operante fin dalla creazione. Gli apostoli e i primi cristiani non hanno attribuito a Gesù il titolo di Signore soltanto nel senso legale del termine, ma l'identificazione vera e propria con Yahweh delle antiche scritture. Per essi Elohim e Yahweh erano una identità di deità, di natura, ma diversi, perché uno è Dio, l'altro è il Signore. Se i credenti dell'Antico Testamento credevano in Gesù, erano dei protocristiani. Se i credenti dell'Antico Testamento erano dei protocristiani, il cristianesimo è iniziato dalla Genesi. Gesù rivela l'esistenza del Padre. La presa di coscienza che esista un supremo, un essere infinito, è sempre esistita in qualsiasi cultura e nazione. Nulla di strano dunque che anche il popolo di Israele avesse coscienza di un creatore, di un altissimo, ma che la divinità fosse pluripersonale e identificabile con un padre, con un figlio e con lo Spirito Santo è una rivelazione esclusiva di Gesù. Il fatto che Gesù avesse un padre può essere ritenuta una considerazione banale perché risaputa, ma se si parte dal presupposto che nessuno fino alla venuta di Gesù poteva pensare che la divinità di Israele, Yahweh, avesse un padre, allora non solo si rimane stupiti, ma sorprendentemente sbalorditi. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Matteo 11:27. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, e colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1:18. Gesù dunque è il solo tramite perché l'uomo possa conoscere il Padre. Solo attraverso il Figlio si conosce che esiste un Padre. L'equivoco del cristiano, che conosce il Padre, è quello di pensare che sia stato rivelato anche prima di Gesù Cristo. Si pensa di scorgere, nell'Antico Testamento, in Dio, il Padre, e nel titolo Signore, un nome comune, se non un aggettivo, del Padre stesso. Se diamo attenzione all'affermazione di Giovanni che nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è Spirito, Giovanni 4:24, questa per l'autore è una vera e propria provocazione. Infatti è vero che in 19 secoli di commentatori e di filosofi greci si è fatta di questa verità quasi un dogma, ma la sorpresa profonda che gli stessi giudei avrebbero è che il Tanakh, gli ebrei chiamano così la Bibbia, afferma proprio Mitri il contrario. Esseri umani nell'Antico Testamento hanno visto Dio, oltre al caso di Isaia, ricordato in Giovanni 12, 37-41, dobbiamo citare anche nella Torah l'episodio di Giacobbe a Betel e a Penuel, Genesi 32. Inoltre Mosè è descritto come colui che vide Yahweh sul Sinai, Esodo 34. L'affermazione di Giovanni sta quindi a significare che nessuno ha visto Dio Padre, la pluralità di Elohim. Ciò che confonde il credente per non comprendere questa semplice e profonda verità è che l'Antico Testamento presenta già Dio come Padre, ma questo aspetto è visto solo in relazione alla creatura e non nel contesto delle relazioni della divinità di Israele, dell'Elohim. Non abbiamo forse tutti un solo Padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro così che profaniamo il patto dei nostri padri? Malachia 2:10. Soltanto nella rivelazione neotestamentaria abbiamo conosciuto da Gesù l'esistenza di un Padre di Dio. Questo aspetto è peculiare del cristianesimo. È anche vero che nell'Antico Testamento vi erano già affermazioni che velatamente affermavano una figliolanza in seno alla divinità e che solo alla luce delle parole di Cristo si possono comprendere. Salmo 2, 7-12, Proverbi 34. Noi abbiamo conosciuto un Padre nella divinità solo perché Gesù ce lo ha rivelato. Escludere la possibilità che l'Antico Testamento presenti Dio Padre non significa che egli non sia stato all'opera. Anzi, gli stessi termini Elohim, Di, plurale, e Adon, Ajei, Signore, nome comune plurale, ci conducono a comprendere una pluralità nella divinità, ed in questa pluralità è legittimo scorgervi anche il Padre e lo Spirito Santo. Ad extra, le opere di Dio, gli Iddi, sono comuni alle tre persone. Quando leggiamo che nel principio Elohim creò i cieli e la terra, Genesi 1:1, Dio Padre era all'opera col Figlio e lo Spirito. L'Antico Testamento contiene dunque la presenza di Dio Padre, ma non la rivela. Anzi, possiamo affermare che l'Antico Testamento presenta e rivela soltanto Yahweh, il nome, pur citando anche lo Spirito, ma non per le peculiarità della personalità. Gesù ci apre l'accesso al Padre di Lui. Lo specifico della rivelazione cristiana, oggi poco considerata e anche poco chiarita, è che Gesù afferma a chiare lettere la sua presenza nell'Antico Testamento. Abbiamo considerato che forse la novità più sorprendente del Nuovo Testamento è che Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, quello che la Chiesa ha conosciuto come il Cristo, avesse un padre. Per la nostra cultura cristiana ciò non ci stupisce più di tanto. Ciò che stupisce e ci apre il cuore è che l'incarnazione, la morte e la resurrezione di Gesù non sono serviti solo alla salvezza dell'uomo, ma la sua opera di redenzione ci ha dato la possibilità di avere accesso al Padre. Se consideriamo che nell'Antico Testamento il credente nell'adorazione si avvicinava a Yahweh, serviva Yahweh, con la sua venuta Gesù ha aperto la porta per avvicinarci al Padre di Lui, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito, Efesini 2,18. Se Paolo mette in evidenza che l'accesso a Dio è mediante Gesù Cristo, ciò significa che, prima dell'incarnazione di Cristo, non era possibile. Ciò che sfugge ai cristiani è che, quando la cortina del Tempio di Gerusalemme si ruppe alla morte di Gesù, era aperta la porta non tanto all'accesso a Dio inteso come l'Elohim o il Theos, ma alla persona del Padre, la prima persona della Trinità. Oggi noi possiamo dunque parlare, pregare, chiedere direttamente al Padre tramite Gesù, in Cristo. Solo tramite Gesù Cristo possiamo accedere direttamente al Padre. Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 1 Timoteo 2,5. Il credente ha dunque ora comunione con l'Elohim, con l'Iddi, con tutta la pluralità personale della divinità. La venuta di Gesù Cristo sulla terra ha un duplice scopo, quella di dare all'uomo l'accesso al Padre e quello di indicare all'uomo l'unica via per poter avere accesso al Padre. Confronta GV 14,6. Il dono di avere la possibilità di entrare in comunione direttamente con la prima persona della Trinità non deve essere sottovalutato perché solo il cristianesimo insegna tale verità. Un vescovo indiano testimoniò di essere stato una persona molto religiosa prima di convertirsi al cristianesimo. Una sola parola lo aveva fondamentalmente spinto verso la fede in Cristo, accesso. Nella sua espressione religiosa non aveva mai trovato accesso ai suoi dei in tutti quei templi, benché fossero miriadi. Aveva infine trovato accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il concetto chiave del Nuovo Testamento è che abbiamo accesso al Padre. L'opera di Cristo va ancora oltre, coinvolge la natura dell'uomo. Pietro scrisse: poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati, mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. 2 Pietro 1,4. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. 1 Pietro 1,23. Il credente, benché sia una creatura, è stato fatto partecipe della stessa natura divina del Dio Trino, di Dio Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Poteva un unico Dio Trino onorare la sua creatura in modo migliore, e Giovanni nella sua lettera è ancora più ardito: Dio è amore. Quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 1 Giovanni 4,16-17. La creatura imperfetta, limitata, è stata innalzata al rango divino. Giovanni è esplicito: egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Giovanni 1,11-13. Che questa verità possa essere conosciuta, accettata e vissuta,